Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta, buon lunedì. Lavoro, traffico, crisi economica, studio, partner poco collaborativo. Cari amici, la quotidianità è sempre più stressante, a rivelarlo è un'indagine online condotta da Human Highway per conto di ANIFA, l'Associazione Nazionale Industria Farmaceutica dell'Automedicazione, su un campione di uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Naturalmente un campione rappresentativo. Andiamo a sentire. Lo stress colpisce 8 persone su 10, con una netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini. Il 58% degli intervistati dichiara inoltre che il proprio livello di stress è aumentato negli anni. Il lavoro e i problemi economici sono in generale i due principali ambiti in cui si sviluppano situazioni di stress. Non mancano in classifica il traffico e l'attuale situazione politica. La donna soffre più dell'uomo anche le situazioni legate al focolare domestico, come la gestione della famiglia e la relazione di coppia. Il modo di reagire allo stress cambia tra lei e lui. Mentre l'uomo tende a prendere la situazione di petto e risponde all'affronto con decisione, il gentil sesso è più incline a sopportare con pazienza. La relazione tra stress e salute è bene conosciuta sia dagli uomini che dalle donne. La lista dei sintomi stress collegati è lunga: mal di testa, insonnia, problemi di digestione. Quasi il 20% del campione pensa che quando lo stress lo mette sotto pressione, gli sale la pressione. Intanto saluto il professor Piero Barbanti, che è in linea con noi. Buongiorno professor Barbanti. Buongiorno Nicoletta. Primario, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, esiste una relazione tra stress e ipertensione? Esiste solo un effetto camice bianco o può esserci dell'altro? Certamente ci può essere dell'altro. Innanzitutto distinguiamo lo stress breve dallo stress ripetuto o protratto. Lo stress breve, quando vado dal medico a farmi misurare la pressione, veramente il camice mi può impressionare, senza andare a scomodare per il gentil sesso un George Clooney a IR, ma in questo caso è una reazione di allarme breve. Vorrei sottolineare una cosa: la prima cosa dello stress è il filtro cognitivo. Non tutti gli eventi stressanti per una persona possono essere validi per un'altra, e quindi lavoriamo a volte, qua bisognerebbe aprire una lunga parentesi che non apro, sul filtro cognitivo che ci fa dire: per questa cosa vale la pena preoccuparsi, prendersela, allarmarsi, per altre no. Però quando insomma suona l'allarme dello stress, lo sporco lavoro viene fatto fare all'ipotalamo, che è questa parte del cervello che va a svegliare l'ipofisi e va a svegliare i surreni, e il nostro organismo viene inondato dal cortisolo. È una reazione brutale, brusca, ma per fortuna breve e addirittura utile. Infatti, rispolverando le formule politiche degli anni 70, il termine migliore sarebbe dire un equilibrio più avanzato, cioè si passa dall'omeostasi all'allostasi, cioè ci si muove per mantenere lo status quo, e questo è l'aumento di pressione rilevato per il camice bianco. Ma l'iperteso da stress è verosimilmente un soggetto che da anni subisce stress brevi ripetuti o addirittura uno stress protratto. In questo caso il motore, il corpo umano è molto affaticato, e l'ipertensione, che ha comunque tanti padri, può avere nello stress una sua paternità. Ma professor Barbanti, come possiamo accorgerci che stiamo andando incontro allo stress cronico? Proviamo a usare uno slogan. Sì. Lo stress nasce nel cervello e nel cervello si manifesta all'inizio. Chiunque di noi ci stia ascoltando e sia un po' stressato sa benissimo: un po' di insonnia, irritabilità, mal di testa, a me così caro. Però attenzione, lo stress diventa cronico quando espatria dal cervello, e cioè quando incomincia a manifestarsi compiutamente in maniera abbastanza riproducibile anche in altri distretti, per esempio muscolare, muscoli tesi, disturbi gastrointestinali, pensiamo le colonopatie funzionali, e poi, so che oggi si parlerà di ipertensione, tachicardia o appunto ipertensione. Questo vuol dire che il nostro motore, che solitamente è silenzioso, diventa rumoroso, emerge un rumore di fondo. Cosa succede? Succede che si sono smossi stabilmente i neurotrasmettitori che il nostro cortisolo rimane alto e insensibile ai tentativi biologici che noi inconsapevolmente attuiamo per silenziarlo. E poi si muove l'immunità, o meglio si squilibrano le interleuchine. Questa è la base scientifica di come mai uno stress possa indurre malattie metaboliche, cardiovascolari, immunologiche. Quando si dice che lo stress, certo, quando si dice che lo stress fa ammalare. Ma professor Barbanti, prima di salutarla, a volte non sappiamo a che santo votarci per liberarci da questo stress. Quando cambia sede dal cervello, poi scende nel nostro corpo. Ci dà qualche consiglio, consiglio proprio da Daily Lab, il nostro appuntamento quotidiano con il benessere? Molto semplice, dicevo all'inizio di questo mio intervento, lo stress breve non crea problemi, protratto ripetuto sì. Sgomitiamo tra la folla per farci spazio, la folla sono i nostri impegni quotidiani, noi dobbiamo fermare un attimo il tempo. Fermare un attimo il tempo vuol dire piccoli trucchi, ma che dobbiamo assolutamente attuare. Tornare a casa a pranzo? Bene, se hai la possibilità fallo, ti dai 5 minuti, fermarti tanto il mondo va avanti lo stesso, anche 10 minuti con le gambe incrociate sulla scrivania a respirare profondamente, alcune volte una breve vacanza, sembrano rimedi così da un po' un tot al chilo, ma sono la base per creare gli spazi temporali che consentono al nostro sistema nervoso e neuroendocrino di ricaricarsi. Quando questo non basti, yoga, biofeedback, tecniche di rilassamento e poi medico e farmaci in alcuni casi, senza dubbio. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi, proverò a tornare a casa qualche volta a pranzo, poi le farò sapere. Buona giornata. Scusi, ne ho ordinato 5 polpette? Io 5 gliele ho date. Apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'hai la pressione alta! E di pressione alte non solo, ma anche per evitare di far salire i livelli della i valori della nostra pressione, parliamo oggi con un grandissimo esperto che ho l'onore di avere qua in studio con me finalmente, professor Giuseppe Mancia, che è clinico medico all'Università di Milano Bicocca e all'Ospedale San Gerardo di Monza. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno. A proposito di stress, professor Mancia, voi avete fatto uno studio per valutare il rapporto fra picchi pressori e determinate situazioni. Il risultato? La pressione arteriosa si impenna, anche se momentaneamente, in alcune categorie di persone in modo particolare. Allora andiamo a sentire quali sono. Manager affaticato e non gratificato. Studente in procinto di dare un esame. Amante in preda ad ansia da prestazione. Automobilista in autostrada in fase di sorpasso. Tifoso di calcio, quello davanti alla TV al momento dei calci di rigore. Fumatore, perché il tabacco fa salire la pressione. Professor Mancia, la pressione arteriosa ha delle variazioni fisiologiche nel corso della giornata. In alcune situazioni si impenna, ma questo è naturale, è sano? Sì, assolutamente naturale, questo bisogna dirlo, perché molti pazienti vanno dal medico impressionati dal fatto che in situazioni emotive particolari la loro pressione supera ampiamente quelli che si definiscono limiti di normalità, sopra i 140 mm di mercurio di pressione massima, per esempio, arrivano anche a 200. Beh, questo non vuol dire essere ipertesi, vuol dire rispondere a delle situazioni ambientali, e la pressione alta in questo caso serve a incrementare la perfusione, il flusso sanguigno, il nutrimento degli organi che in quelle particolari situazioni hanno bisogno di più sangue. Il problema nostro, ed è un problema corrente purtroppo, è cosa è eccesso di risposta in termini di incremento di pressione arteriosa, perché è evidente che questi sono dati aneddotici e su grandi numeri una risposta a questo quesito non è ancora stata data. Sappiamo però che l'incremento di variabilità nelle 24 ore della pressione arteriosa può costituire un fattore di rischio aggiuntivo rispetto ai valori medi di pressione. È ancora materia di ricerca, non è trasferibile come tale alla pratica clinica, ma è sicuramente un dato interessante. Professor Mangia, quindi a manager, studenti, amanti con ansia da prestazione, automobilisti, tifosi, fumatori, chiediamo misuratevi la pressione. Ah, sicuramente, perché la relazione tra pressione e fumo è una relazione a doppia faccia. Si dice che i fumatori tendono ad avere la pressione più bassa e questo può essere legato al fatto che tendono anche a essere più magri. Però è anche vero che acutamente il fumo di sigaretta aumenta la pressione moltissimo, di 20-25 mm di mercurio, e questo si accompagna anche a tachicardia. E la durata di questo aumento eccede grandemente la durata del fumo in sé. Fumo sigaretta, quando uno fuma sigaretta, in 5 minuti sì, l'ha finita. Bene, anche l'incremento meno di pressione, anche meno. Ecco, l'incremento dura mezz'ora. Quindi un forte fumatore ha incrementi di pressione ripetuti nel corso della giornata, e quindi i suoi valori nel corso delle 24 ore sono mediamente. Quindi questo mi fa dire, professor Mancia, che se un grande fumatore segue una terapia antipertensiva, sbaglia, nel senso che butta gli effetti della terapia e dei farmaci, prende solo gli effetti negativi, perché tra fumo e farmaci poi c'è una lotta. Sì, in effetti è stato visto in alcuni importanti studi che può essere più difficile controllare la pressione nei fumatori, e una delle ragioni può essere legata al fatto che appunto il fumo in sé incrementa la pressione. L'altra ragione è legata al fatto che i fumatori tendono a essere più irregolari nell'assunzione dei farmaci, cioè il fatto di non avere a cuore la loro salute si estende al di là del fumo, purtroppo. Le linee guida, professor Mancia, promuovono l'automisurazione a domicilio. Ci dia qualche indicazione di base per dare soprattutto delle risposte alle domande più frequenti. Le sentiamo e poi ne parliamo. Come faccio a scegliere l'apparecchio giusto? In quale momento della giornata è meglio misurare la pressione? La pressione va misurata in piedi o seduti? Nel braccio destro o in quello sinistro? Il mio farmacista la misura due volte, mentre il mio medico una. Quante misurazioni devo fare io a casa per avere i valori corretti? Come si fa a scegliere l'apparecchio giusto? Ma vi sono degli apparecchi che sono stati testati con protocolli internazionali e quindi sono sicuramente degli apparecchi precisi, e questi apparecchi vanno usati, non quelli che non sono testati. Quando misurare la pressione? Sempre in situazioni di tranquillità, proprio per il problema che dicevamo recentemente, la difficoltà di interpretare i cosiddetti picchi. E io direi che basterebbe misurarlo in situazioni di tranquillità il mattino e la sera, evitando periodi intermedi nella giornata dove appunto le condizioni possono essere non quelle standard. Braccio destro o braccio sinistro? La diagnosi iniziale di ipertensione fatta dal medico presuppone la misura in entrambi gli arti e si prende il valore più alto, il braccio che dà valore più alto. In genere però nella gran parte dei soggetti i valori si equivalgono. Dopodiché bisogna continuare misurando la pressione sempre nello stesso braccio. Quindi o destro o sinistro, sceglietene uno e tenete quello. E in quale posizione? Posizione seduta. Va bene, dopo 5 minuti di attesa dal momento in cui si mette l'apparecchio sul tavolo e si il manicotto intorno al braccio. Professore, noi abbiamo un valore per la minima e uno per la massima. Sono due valori ugualmente importanti, ma acquistano un'importanza particolare anche in base all'età. Allora, dividiamo i nostri ascoltatori in due gruppi, sopra e sotto i 50 anni, i giovani e i diversamente giovani. Prendiamo ad esempio il caso di un uomo 35enne, leggermente sovrappeso. A quale valore deve stare particolarmente attento? Più alla minima o più alla massima? L'età è importante in questo caso. Fermo restando il fatto che sia la massima che la minima sono collegati col rischio di avere eventi cardiovascolari, quindi entrambe le pressioni sono importanti, però di solito noi pensiamo che sia solo quella la massima. No, entrambe. E gli ultimi risultati disponibili sui grandi numeri tendono a suggerire che la minima può essere più importante negli individui giovani sotto i 50 anni, poi mano a mano che l'età avanza la pressione più predittiva del rischio diventa la massima. E la massima è anche oggetto di grande attenzione perché è quella più difficile da controllare. Mentre la minima viene controllata nella quasi totalità dei soggetti con terapia appropriata, per la massima ci possono essere delle notevoli difficoltà aggiuntive, perché la massima è espressione della rigidità del grande albero arterioso. Le arterie diventano meno distensibili, sì, e questo chiaramente è un fattore di destrutturazione anatomica che è difficile fare regredire anche con la migliore terapia. Abbiamo Riccardo che ci chiama da Padova. Benvenuto e buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho mio figlio che ha 16 anni e praticamente la pressione minima ce l'ha a 68 e spesso e volentieri sente il cuore battere sulle tempie. La massima ce l'ha a 128 e i battiti cardiaci normalmente a riposo sono 95-100 battiti. è normale o c'è qualche patologia? I valori di pressione sono assolutamente normali. Il fatto che possa avere cardiopalmo può essere assolutamente un fenomeno innocuo, magari essere innamorato, legato a battiti prematuri, cosiddette strasistoli ripetute, e che sono presenti in un enorme numero di soggetti e di solito non hanno valore patologico. Se uno vuole essere assolutamente sicuro, può ovviamente procedere ad un esame come l'elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore. E se il periodo dell'esame è tale da consentire di identificare questo episodio di cardiopalma, uno può avere la prova definitiva che si tratta di innocue estrasistoli. Professor Mancia, ma ha senso chiedere ai misurare la pressione ai ragazzi, anche ai ragazzi giovani? È consigliato? Assolutamente, assolutamente. La misura della pressione dovrebbe essere fatta a tutte le età e il medico dovrebbe prendere l'occasione di qualunque visita, anche una visita per influenza, approfittandone per misurare la pressione. Non solo misurarla, ma segnarla, riportarla nelle schede dei pazienti. Una delle cose di cui ci si lamenta molto è che spesso avviene che il medico misura la pressione ma poi non segna i valori. Sono invece informazioni preziose nella storia del paziente. Per esempio, identificare il momento in cui l'individuo diventa iperteso, che rimane sempre un'informazione molto molto discutibile dal punto di vista dell'accuratezza. Se noi avessimo segnati o riportati i valori di pressione nel corso di ogni visita, chiaramente il problema farebbe uno scatto in avanti in termini di conoscenza. Ci sono altre cause che possono far alzare la nostra pressione, fattori di rischio su cui ciascuno di noi può intervenire, ad esempio il peso, il consumo di sale, l'attività fisica, smettere di fumare. Questo dipende tutto da noi, no? Beh, sicuramente è vero che lo stress è quell'aspetto dello stile di vita che è più difficile da modificare, perché è legato a situazioni magari ambientali che l'individuo non può modificare, anche se alcuni consigli possono essere dati. Però vi sono altre anomalie nello stile di vita sulle quali si può fare qualcosa. Ecco, ma ad esempio, perché voi dite, facciamo un po' i conti pratici, il peso. Non tutte però le persone sovrappeso sono ipertese. Assolutamente no. Quando noi diamo delle correlazioni di carattere statistico, diamo la legge dei grandi numeri, poi negli individui le cose possono essere diverse. Comunque, sui grandi numeri esiste una stretta correlazione tra peso e pressione arteriosa. Gli individui obesi sono molto frequentemente ipertesi e la maggioranza degli ipertesi sono sovrappeso. E ridurre il peso riduce la pressione. Ecco, ma ad esempio, per una persona che ha qualche chilo da perdere, quando, dopo quante perdita di chili vede muoversi i valori della pressione? Ah beh, bastano 3, 4, 5 kg e già l'effetto si vede. Esiste una relazione abbastanza stretta, addirittura tra ogni chilo di peso e una frazione di millimetri di mercurio che viene ridotta. Quindi è matematico, se sono sovrappeso e sono lievemente iperteso, se diminuisco un po' di peso anche la mia pressione scende, lei me lo assicura? Sì, oddio, no, diciamo che in biologia e matematica non vanno d'accordo al 100%, cioè non esiste una legge che è sempre valida, però normalmente questo è ciò che avviene. Non solo, ma ridurre il peso corporeo facilita l'effetto dei farmaci antipertensivi, cioè è più difficile con i farmaci controllare la pressione nell'obeso che non nell'individuo normopeso. Domenico ci chiama da Milano, Massimo da Brescia, Gianmarco dalla provincia di Roma. Domenico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno al suo ospite. Dunque, penso di essere un bel paziente da osservare. Dunque, in agosto ho fatto un'operazione, ho cambiato due valvole, una biologica, la aortica, e poi la mitralica. Naturalmente sono in riabilitazione in un primario ospedale. Sì. e perciò sovente sono controllato, prendo farmaci. La cosa positiva, sono leggerissimamente sovrappeso. Purtroppo fumicchio ancora, nonostante tutto. Un po' sovrappeso, un po' fumicchia. E la sua domanda? La mia domanda è la relazione tra frequenza cardiaca e le pressioni, sia minima che massima. Professor Mancia. Beh, anche qui sui grandi numeri esiste una relazione, nel senso che gli ipertesi mediamente hanno una frequenza cardiaca un po' più alta dei normotesi, parliamo di pochi battiti. Però di nuovo negli individui possiamo trovare di tutto, possiamo trovare bradicardici ipertesi e normotesi tachicardici. Quindi è questa una delle difficoltà di fronte alle quali si trova il medico, ed è anche la ragione per cui la medicina e la terapia va gestita dai medici e non dai grandi numeri statistici, altrimenti basterebbe il computer, certo. In sostanza. Ecco. Però una relazione esiste, e anche esiste il dato, ripetuto più volte, che la frequenza cardiaca rappresenta un fattore di rischio indipendente, cioè vuol dire indipendentemente può incrementare il rischio di avere degli eventi cardiovascolari rispetto agli altri fattori di Quindi rischio. Quindi anche questo è un valore che dobbiamo tenere sott'occhio? È un valore che dobbiamo tenere sott'occhio. Però in medicina esistono vari buchi conoscitivi, noi ancora non sappiamo se ridurre la frequenza cardiaca poi riduce il rischio, perché questa è l'altra faccia del problema. Io posso conoscere un fattore di rischio ma non essere sicuro che questo sia reversibile o modificabile con la terapia, e si spera che nei prossimi anni possano essere condotti dei grandi studi che colmino questa lacuna. Essere e benessere. Andiamo a Massimo, che ci chiama da Brescia. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere una cosa molto semplice. Sì. Io ho 21 anni, sono un leggero fumatore, nell'ordine delle 10 sigarette al giorno, e volevo chiedere se c'era una correlazione tra superalcolici e alta pressione, nel senso che io spesso, come purtroppo molti giovani, durante il weekend bevo gin, vodka e cocktail, e il giorno dopo provo delle sensazioni molto strane, cioè una sensazione di alta tensione, che è una sensazione di forte agitazione, e ho supposto che questo poteva essere correlato con un'alta pressione. Quindi volevo sapere se c'era una correlazione tra alcol e pressione. Senti Massimo, posso darti del tu perché sei giovanissimo. Hai provato magari qualche weekend a bere meno? Bella domanda, solo che quando si è fuori con gli amici sa com'è. Professor Mancia, parli lei che è un medico, se no io faccio la mamma e Massimo mi attacca al telefono. No, esiste una relazione sicuramente. Gli alcolisti hanno una percentuale di ipertensione che è notevolmente superiore a chi non beve, sicuramente. Quindi l'alcol, che tra l'altro stimola il sistema nervoso simpatico, se a volte produce vasocostrizione, ha un effetto favorente l'incremento di pressione arteriosa. E naturalmente essere alcolista non vuol dire bere tutti i giorni una grande quantità, ma può anche voler dire bere smodatamente ad intervalli, anche questo può essere quindi anche solo nel weekend, come ci raccontava detto Massimo. Questo però non è detto alcol e fumo insieme si potenziano naturalmente. Detto questo però non è detto che i disturbi che si hanno alla fine della sbornia necessariamente significhino incremento di pressione arteriosa, perché la pressione arteriosa non dà sintomi a meno che non sia molto elevata. Può essere semplicemente un malessere, il sentirsi male, aver paura in qualche modo, e questo indirettamente può far salire la pressione arteriosa, cioè l'incremento di pressione può essere la conseguenza, non la causa. Quindi a Massimo, le cose da dire sono sempre le stesse, ma le dica lei, professore. Bere di meno? Assolutamente, insomma. Massimo, non fumare. 21 anni. Beh, dice, un modesto consumo di alcol può avere degli effetti positivi. Sempre statisticamente noi sappiamo che il minimo di rischio cardiovascolare non si ha negli astemi, ma si ha in quelli che hanno un moderatissimo consumo di alcol giornaliero. Questi sono addirittura dati dell'Organizzazione Mondiale di Sanità. Il problema è definire cos'è questo modesto consumo di alcol, e lì non siamo molto d'accordo. Gianmarco, dalla provincia di Roma, e poi Maria Cecilia, da Vicenza, buongiorno. Gianmarco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno professore. Buongiorno. Io ho 38 anni, e diciamo che nella mia vita ho avuto un'alimentazione sbagliata, un pacchetto di sigarette al giorno, poi un po' di alcol a pranzo, qualche superalcolico e via dicendo. Ora mi sono reso conto che all'età di 38 anni sono arrivato con questo stress che poi si accumulava, oltre a tutti questi vizi, diciamo, a questi errori. Questo stress è diventato praticamente, come dice il professore, l'ho sottovalutato. Sì. È sfociato in un attacco di panico vero e proprio, una cosa che non avete parlato fino ad ora. E questo attacco di panico, professore, saprà benissimo. Abbiamo però, Gianmarco, però noi abbiamo dedicato puntate intere sull'attacco di panico, Gianmarco. Lo so, mi dispiace, però a me, forse può andare sull'archivio e scaricarle e sentirsele. Vabbè, la ringrazio. Comunque la mia domanda era questa. Se diciamo un'attività di aerobica e anaerobica tipo palestra bodybuilding e fare box o cose così possono aiutare ad abbassare questo livello di stress, a correggere tutte queste cose. Voglio sapere se lo sport aiuta. Professor Mancia, lo sport aiuta? Aiuta moltissimo. Tipo di sport in particolare? Lo sport che diverte riduce lo stress sicuramente, ma l'attività fisica riduce la pressione, modestamente, ma la riduce. E non è necessario avere un'attività fisica intensiva, basta un'attività fisica moderata, per esempio, e nemmeno giornaliera. È stato visto che una riduzione di pressione si ottiene, per esempio, camminando un paio di chilometri al giorno nel modo che gli anglosassoni definiscono brisk, cioè ad andatura vivace. Già questo può essere sufficiente nell'arco di alcune settimane per avere un piccolo ma importante effetto sulla pressione arteriosa. Quindi sorridete e camminate, questo è di solito il mio motto, sorridete, perché anche, no, abbiamo visto che anche il buon umore aiuta il cuore. Maria Cecilia, finalmente sono da lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere al professore, sono in terapia da circa 4 anni per la per l'ipertensione, che esami è utile fare in questo percorso, cioè di cura, perché è molto altalenante la mia pressione. In certi momenti, ad esempio quest'estate, era piuttosto, cioè a giorni era giù, se prendevo anche la mezza pastiglia che mi andava giù, mi sentivo poco bene, cioè faccio fatica a modulare questo tipo di terapia che altri accertamenti potrei fare. Grazie. Allora, ma professore, per quel che riguarda misurare valore, la pressione, che cosa si può fare? Beh, intanto misurare la pressione è importante, può molto aiutare appunto l'automisurazione a domicilio, fatta immediatamente prima dell'assunzione dei farmaci, in posizione seduta, situazione di tranquillità. Questo è importante sottolinearlo, prima dell'assunzione dei farmaci, perché vediamo se i farmaci ci coprono. Esattamente. La situazione è peggiore, se vogliamo, perché è alla massima distanza dalla terapia precedente. Se la pressione normale in quella circostanza, si ha ragione di ritenere che la pressione possa essere controllata lungo tutto l'arco dell'intervallo terapeutico. Segnarlo e parlarne al medico, cioè non bisogna da questo ricavare il fatto che la terapia è una terapia fai da te. Queste sono delle informazioni che poi sono preziose per il medico per eventualmente modificare la terapia. Perché poi la terapia va tarata, no? Va proprio individualizzata per evitare che poi la pressione scenda un po' troppo e ci si senta stanco, oppure che la pressione continui a scappare in alto. Un po' di sale in meno per vivere più a lungo e per tenere anche la pressione sotto controllo. Ci piace questa idea? No, sicuramente consumiamo troppo sale, molto più sale di quanto ne abbiamo bisogno, e questo oltretutto non aiuta neanche il sapore dei cibi in qualche modo. E sappiamo che per esempio alcune ipertensioni resistenti anche a 3-4 farmaci antipertensivi, la resistenza è legata a un eccesso di consumo di sale. Detto questo, però, bisogna anche stare attenti a che cosa si fa con il sale, perché il sale è un elemento fondamentale nel funzionamento delle cellule. Le nostre cellule non trasmetterebbero gli impulsi se non ci fosse un'adeguata concentrazione di sale all'interno della cellula, di sodio. Ecco, la dieta iposodica modesta può ridurre la pressione arteriosa, purtroppo l'effetto è molto variabile da paziente a paziente, mediamente non molto marcato, però può essere fatto. Noi consumiamo 2-3 volte la quantità di sale invece raccomandata, siamo da 10-15 grammi al giorno, quando invece l'OMS... Si può pensare di addirittura una modesta dieta iposalina, partendo da livelli normali, cioè di 5 grammi di sale giornaliero. Ecco, quello che invece secondo me è inutile su base cronica è la drastica riduzione del sale. La drastica riduzione del sale può creare anche degli effetti collaterali. Perché sa noi come facciamo? Che se una persona ci dice sale, troppo sale fa male, allora uno dice allora non ne prendo assolutamente più, perché così mi fanco, no? Riduco il rischio. Basterebbe in qualche modo evitare i cibi con eccesso di sale, con esempio i saluni. Anche dei piccoli accorgimenti come quelli che ci insegna la dottoressa Reverso. Dottoressa Reverso, buongiorno, medico, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno. Il professore adesso ha appena parlato dei salumi. Per esempio, quello che io insegno sia agli adulti che ai bambini è quando consumate i salumi abbinateli, o i formaggi abbinateli a un pane integrale, magari preparato. Adesso abbiamo la macchina del pane a casa, per cui usiamo delle buone farine integrali, uniamo dei semi di sesamo, delle erbe aromatiche, ed evitiamo di aggiungere il sale quando prepariamo il pane e lo abbiniamo a questi cibi. Questo potrebbe già essere un aiuto. Poi parlavo di erbe aromatiche. Non mettiamo il salino a tavola, si tende sempre ad aggiungere il sale. Quando già mettiamo il sale nell'acqua della pasta, non aggiungiamo il salino a tavola. Però a tavola mettiamo qualcosa di più colorato. Compriamo quei macinapepe trasparenti e mettiamo delle bacche di pepe rosa, del pepe verde, e mettiamo anche qui delle erbe aromatiche, così magari aggiungiamo quello alle nostre insalate, alle verdure, al sugo della pasta. Un altro stratagemma sono le marinature. Per esempio possiamo mettere sia il pesce che le carni a marinare, per esempio nella birra artigianale, in un buon vino rosso, con delle scorze di limone o di arancia, delle bacche di ginepro. Anche qui possiamo giocare con le erbe aromatiche, dalla salvia al rosmarino all'alloro. Le possiamo mettere a marinare 3-4 ore, magari la mattina, prima di colazione mettiamo il nostro secondo piatto a marinare e poi lo facciamo cuocere con questa marinata. In questo modo, per esempio, il pesce al cartoccio, oppure anche il pollo, il petto di pollo, la fesa di tacchino, si può prestare ad essere consumata al cartoccio. Mi ha fatto venire fame, professor Mancia. Io e il professore eravamo qua che... No, ma quello che dice la dottoressa è di grande saggezza terapeutica, perché una delle cose da evitare nel paziente, che già è scioccato dal fatto di sapere che è qualche cosa di cui dovrà far conto per tutta la vita, magari prendendo una compressa ogni giorno, questo ha un impatto negativo sul paziente. Se poi gli riduciamo la qualità della vita eccessivamente, gli effetti negativi sono evidenti. Invece bisogna cercare di far sapere al paziente che esiste una disregolazione della pressione. Lo stesso termine ipertensione sento un connotato negativo che forse sarebbe stato meglio evitare, ma che l'iperteso è assolutamente normale rispetto al normoteso in termini di funzionamento dell'organismo, eccetto che ha un fattore di rischio che va controllato. Quindi non è una malattia, è un fattore di rischio. E questo alcuni dei saggi clinici del passato lo sapevano e insistevano sul fatto di non considerare il paziente un malato, in sostanza, anche può essere una contraddizione in termini. C'era un famoso clinico inglese, il professor Sir George Pickering, che quando si parlava della drastica riduzione del sale nella dieta, che comporta delle limitazioni alla vita quotidiana notevolissime, diceva che andrebbero prese cum grano salis. Essere e benessere. SOS Casa, parliamo oggi dei piccoli infortuni che ci possono capitare dentro le mura domestiche, ad esempio le scottature. È tornato con noi il dottor Lorenzo Moia, ricercatore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Milano e autore di Revisioni Cochrane. Buongiorno dottor Moia, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei parlare con lei delle scottature, perché ne ho una fresca. L'altro ieri avevo ospiti a cena, fai di corsa in cucina perché ti aspettano di là, eccetera, avevo una bella teglia di lasagne, ciaf, l'ho afferrata, mi sono scottata, un male terribile. Tutti dicevano: mettila sotto il ghiaccio, l'acqua, metti il ghiaccio, metti la patata, metti la crema, eccetera. Io la crema non l'ho trovata e insomma adesso è qua. Che cosa si deve fare, dottore? Ci sono due soluzioni. Nel primo caso avresti potuto aprire la tua dispensa e tra i vari barattoli cercare un barattolo di miele. Quello ce l'avevo e non l'ho usato. Ma come mai il miele, dottore? Il miele, c'è una revisione Cochrane che ha messo insieme i risultati di 9 studi clinici e hanno studiato le proprietà che ha il miele nel riparare le ustioni, quelle da lieve a moderate, quelle accadono in casa. Sì. E ha confrontato il miele con alcune delle creme, delle garze impregnate che vengono generalmente usate. E il miele in queste ustioni si è dimostrato un prodotto efficace che crea cioè le condizioni perché la pelle si ripari più velocemente. E pensa che il miele quindi ha la stessa efficacia di alcune creme delle scottature che andiamo a comprare in farmacia, come quella a base di solfi di azina argentica, che è una delle più classiche. Sembra magico, sembra quasi incredibile, ma come possiamo spiegare questa proprietà riparativa, no? È giusto il termine del miele? Perché... Certo, è un rimedio antico, attuale, e le sue proprietà sono dovute alle molte componenti che contiene il miele, in particolare quelle componenti antimicrobiche che uccidono i batteri e tengono la ferita pulita, e ha proprietà igroscopiche, cioè che creano un ambiente in cui i batteri non si riescono a riprodurre, hanno vita difficile, e questa proprietà erano conosciute già tra gli uomini primitivi ed era molto diffuso come rimedio tra gli egizi nel 2000 avanti Cristo il mele. Altri rimedi della nonna per chi magari non ha il miele in casa? La patata funziona? Sono state anche utilizzate sì le bucce di patate e le foglie di banano. Questi sono dei rimedi in particolare. Sulle foglie di banano non abbiamo nessuna possibilità, però la patata è molto diffuso tra di noi, nel nostro paese, però nei paesi più poveri, dove andare a comprare ovviamente una crema in farmacia e spendere anche pochi euro, questo è proibitivo per molti. E in questi casi il miele è il rimedio preferibile, ma anche le foglie di banano sono molto promettenti, le bucce di patata sembrano essere un pochino inferiori. E le foglie di banano sono queste grandi foglie verdi che hanno gli alberi di banano, fresche, lisce, molto grandi, possono essere tagliate, calmano il dolore della scottatura e in questi paesi non costano praticamente nulla. Senta dottore, invece per quanto riguarda le creme, i rimedi disponibili in farmacia, verso quali bisogna orientarsi? Recentemente è uscita un'altra revisione Cochrane che ha confrontato i diversi rimedi utilizzati sempre per queste scottature da lieve a moderate e sì. Ha messo insieme ben 26 studi, quindi si tratta di un super studio che ne mette insieme 26 più piccoli e i risultati mettono in risalto come alcune creme comunemente utilizzate per il trattamento dell'ustione in realtà non sono così efficaci, potrebbero anzi ritardare la guarigione. Le ustioni possono essere curate con tanti modi differenti, con film, gel, pelle artificiale, ma i medici in alcuni casi utilizzano delle tradizionali medicazioni con garze e impregnanti solfedazina d'argento o clorexidina. E come funzionano? Queste sono delle creme che oggi potremmo mandare in pensione. Perché da questi trial è emerso che altri tipi di medicazioni come i film di poliuretano, i gel di idrocolloide e le medicazioni biosintetiche sono più efficaci per il trattamento delle ustioni. Allora noi per le piccole ustioni ci teniamo un barattolino di miele a disposizione e quindi è un vero toccasana. Dottor Moia, io la ringrazio, grazie anche ai ricercatori della collaborazione Cochrane che con i loro studi ci permettono di chiarire un po' i reali benefici e i rischi legati all'uso dei farmaci e degli interventi in medicina. Spero di sentirla presto, le auguro buona giornata, non si scotti e se no via con il miele. La ringrazio molto e arrivederci a tutti gli audioascoltatori. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata anche a voi. Bambini si parte, fortunati loro, le valigie sono pronte, si salta in macchina e via. L'entusiasmo è alle stelle, ma in agguato un disturbo che può trasformare il viaggio in un'esperienza piuttosto spiacevole. In termine tecnico si chiama cinetosi, noi la traduciamo come mal di spostamento, mal d'auto in particolare. Di solito inizia a manifestarsi intorno ai 2 o 3 anni di età, si protrae in genere sino all'adolescenza e spesso come arrivato svanisce, insomma crescendo regredisce spontaneamente. Ma nell'attesa che questo accada, meglio correre ai ripari, qualcosa si può fare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Zuccotti, che è direttore della clinica pediatrica all'ospedale Sacco di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovati. Lei soffriva di mal d'auto quando era piccolo? Abbastanza. Perché alcuni bambini, per fortuna non tutti, soffrono così gli spostamenti? Ce ne sono proprio alcuni che appena salgono in macchina impallidiscono, avvertono questa nausea, le palpitazioni, anche il sudorino freddo, così mi raccontava la mia bambina. Sì, è assolutamente vero, è una percentuale anche abbastanza elevata, direi che insomma quasi intorno al 60% dei bambini soffrono di mal d'auto e le sue espressioni sono le più diverse, possono essere, come diceva, semplicemente questa nausea, questo vomito, questo pallore, una sudorazione, alcune mal di testa e poi nei bambini più piccoli può essere anche semplicemente un senso di agitazione, perché magari intorno all'anno e mezzo non sanno ancora esprimere completamente i propri disagi e quindi la mamma si rende conto che comunque il bambino non è tranquillo e alcuni addirittura appena salgono stanno immediatamente male. Ci sono mamme che per andare a fare minimi anche spostamenti vanno a piedi o in bicicletta anche nelle stagioni un po' più complicata dal punto di vista climatico. Beh, questo potrebbe essere il lato buono della cosa, no? Almeno ci si muove un pochino di più. Quello sì. Però, professore, noi oggi vogliamo dare alle mamme in ascolto, che sono in partenza con i loro bambini, qualche istruzione, qualche raccomandazione per evitare che il bambino soffra, almeno le cose da evitare. Io inizierei proprio con la partenza e direi la prima regola che vogliamo sottolineare è la sicurezza. Assolutamente sì, credo che questo sia importante e ha fatto bene a ricordarlo, perché non dimentichiamoci che veramente gli incidenti automobilistici sono purtroppo molto frequenti e coinvolgono anche spesso i bambini, e soprattutto quei bambini che non vengono assicurati agli appositi seggiolini. Veniamo alle cose da fare prima di partire. Può essere utile sicuramente dare al bambino una dieta piuttosto solida, è giusto? Sì. Sì, bisogna cercare di evitare di assumere comunque alimenti poco prima della partenza. L'ideale sarebbe consumare dei pasti leggeri almeno 3 ore prima del viaggio. Sì. E quindi cercare soprattutto di consumare cibi solidi, non liquidi, perché questo poi facilmente induce poi al vomito, comunque se questi bambini presentano nausea poi immediatamente rischiano anche di vomitare. Quindi già questo tipo di accorgimento è assolutamente importante. Non a digiuno, mai a digiuno, vero? Si parte. Esatto, sì. Ecco, però bisogna che comunque anche il consumo del pasto non sia proprio vicino al momento del viaggio, quindi è sempre meglio lasciare passare qualche ora, direi almeno un paio d'ore sarebbe l'ideale tra il momento del consumo del pasto, di un pasto leggero, e l'inizio del viaggio stesso. Professor Zuccotti, ci sono però per i casi un po' più seri dei farmaci in commercio. Io devo dire che mi piange sempre il cuore da dare dei farmaci ai bambini, e penso che insomma si possa tentare prima con il gioco, facendogli mangiare un crackers, insomma qualche cosa, però obiettivamente per i casi seri il parlarne con il pediatra può magari essere risolutivo. Sì, devo dire che come dicevo prima ci sono bambini che veramente sono difficoltosi, hanno problemi di spostamenti perché non fanno tempo a salire in auto e stanno immediatamente male, quindi ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere, delle volte in cui il viaggio può essere evitato, altre volte che può essere necessario affrontarlo, e quindi si può eventualmente anche programmarlo, quindi si possono utilizzare questi antiemetici, che bisogna ricordare che comunque sono efficaci se somministrati almeno 30-60 minuti prima della partenza, quindi non nel momento in cui compare il bambino è già seduto, esatto. Compare il sintomo, comunque provocano sonnolenza. Esatto, quindi però ci sono anche delle limitazioni, soprattutto di età. Direi che generalmente, purtroppo, e qui però ricadiamo nella grande maggioranza dei bambini, nei primi anni di vita sarebbe opportuno evitarli. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Arrivederci. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.